Ci siete? Ci siete? C'è nessuno? Bibi, ci siete? Bibi? Io vado per sapere anche se vorrei dire o no, perché sai che c'è una buona provazione. في محلة شندي المتحف الترفيهي للقومية الكورية المسلمة في حمامة لحروف عربية العربية الإسلامية معظم ناجحة لعائلات وهناك العديد من الآثار التاريخية التي تؤكد قوة الثقافية بين هناك مسجد تقام فيه صلاة Thank you. Attenzione a quelli del canale 10, attenzione a quelli del canale 10. E cosa vuoi? Buonasera, doppio room, buonasera. Ciao, già. Aspetta un attimo, metti in carica il telefono. E beh, già. Mi sa che nessuno ne ha più voglia di entrare. Vabbè, io ieri stavo, ho beccato due persone per vedere se riuscivo a vendere quelle vecchie due casse che ho, che mi stanno, c'ero mezzo ai piedi, e poi più che altro mi stavo impegnando, tra virgolette impegnando, una parola grossa, no, mi stavo divertendo a provare a farmi sentire in questi giorni, oltre Tirreno, ce l'ho fatta stamattina, cioè nella giornata di oggi ho fatto diversi di ex, cazzo, dai, mi sono contento, dai. E quando l'hai fatta stamattina? Come si è aperta un po' la propagazione, già. Ho parlato anche con l'Inghilterra, sono riuscito a spiccicare qualche parola in inglese, però già mi sono fatto capire. Niente, poi guarda, l'ultimo in ordine di tempo è Juan dalle Asturie in Spagna, poi con Cartagena, con l'Andalusia, cioè ho parlato con l'Alta Italia, con con Novara e poi non mi ricordo dove. Poi chiaramente la propagazione va e viene, però dai, è stato carino. Ma la tua era anche rimesso? No, negativo, c'è ancora la ringo già. E adesso sono abbastanza presa solare col caldo? Sì, adesso sì, io ho voglia. Non arrivano, il laghetto praticamente non si muove appena. E come prende acqua l'antenna? È difetto. Scusami un attimo. Che come prende acqua la canalizzazione a 1000? Magari se si trova un metodo isolato di farla, sarebbe bello scoprirlo. Vabbè, quella lì è un'antenna estiva praticamente, è vero, la devi tu. Scusami un attimo, già. Sì. 5, 5, 5, 5, oh, c'è qualcuno su 10. Sono sicuro. E allora, oggi si scende bene, buonasera. E allora, Antonio, come ti andi? Sì, oggi sì. No, guarda, la sera solitamente ci sentiamo. Però sono due giorni che sono un po' flusci sono. Già ce ne sono anche giovani, dai. Ogni tanto entra qualcuno, Daniele è giovane per dire. Qualcuno giovane c'è ancora. Pochi ma ci sono. Ma già chi non viso più giovane, anche non viso più bizziti che fa vita. Le prima abitavano i bruni bizziti e si cavano litigati di fare i galliti. Io mi ricordo solo che l'altro appuntamento a una discoteca, a casa siamo trovati con questa qua e ne sono giunti 4 circuiti B. E prima già c'era il coso, poi mi ricordo d'estate ci trovavamo tutti al quadrato a giocare a pallone, tutti ci piccasse con le antenne, con i macchi con le antenne e coso, ci trovavamo al quadrato a giocare a pallone, ci mangiavamo formaggio con i verbi, tutto un altro bere il vino, di tutto avevamo fatto. Cappa, l'isola della Sardegna, la città è Sassari, l'operatore Gianni Doppio Rum, avanti, con chi abbiamo l'onore di parlare? Cappa Mattias, ho capito, la propagazione va in via, quindi non so se tu mi stai ascoltando. Non so come tu mi stai ascoltando lì, il Valle d'Aosta, dai. Cappa, il mio nome è Gianni Doppio Rum. Cappa Mattia, se vuoi trattenerti siamo qua, non c'è problema. Se no ti auguriamo una buona serata anche a te e buon collegamento, dai, avanti. Perché non è una propagazione fissa, va e viene, dai. Mattia adesso ho migliorato come segnale. Mattia, adesso fammi segnare come ti sto arrivando. La radio è chiara? Capo Mattia, dai, ci sentiamo, una buona serata a te e grazie per il consiglio. Avanti, Falcone. È andata, Falcone. E io pensavo che fosse qualcuno di qua, perché... Aspetta. Scusa un attimo. E controllo giù la doccia. Ok. Allora, a Bisese. Scusa, ma... No, lo prometto che non mi piace come sono, aspetta. Pari sentiti, noi non possiamo dire, ma che cosa è... Non mi piace farlo per segnare. Dimmi. Perché c'è propagazione, anche tu sei scelto così, con questo brusiatore. E la propagazione. Vabbè, si sentono, io li sento. No, era Aosta quello lì, di Aosta. Aosta, un paesino vicino ad Aosta. Sì, che risento, si sente brusire più sotto, queste voci passano. Eccomi. Avanti, avanti. Buongiorno. Buongiorno, avanti, con chi abbiamo di parlare? Ciao caro Renato, Nord Italia, Regione Lombardia. Ciao Marcello Lombardia, non so chi tu sia, però è la stazione W che ti sta rispondendo. La città è Sassa di Nord Sardegna. Pronto per il controllo? Roger W, copiato, riprende operatore Renato, città di Treviglio, a 20 km da Bergamo, estremo nord Italia. Allora il controllo è da 7 a 8, è oscillante. La radio è buona, la radio è 5, avanti. Controllo, Ripeto, radio operatore Renato, città di Treviglio, Sardegna, Sassari, cambio. Capo, avanti, chi vuole entrare da Sassari? Gianni, sono io, volevo entrare. Ben sentito l'amico di Bergamo, sono riuscito a copiarti anche io da qua da Sassari, operatore Gianni, LP Dubrofetta. Ben sentito, qua il rapporto Santiago da 6 a 8, variante, ok? Non so come è messa la storia, ma c'è uno svantaggio su canale 12, uno svantaggio locale, canale 12, non mi sento più. Attenzione l'amico di Bergamo, come, in che condizioni stai uscendo? Qual è la tua condizione di trapasso? Sto andando con una vecchia alla 68, un'antenna mezz'onda, una President Himalaya di 550 dalla ZG. Adesso penso di essere tutto qua. Statico 1104 abbinato a questa radio qua, radio vecchia. E che radio hai? Non ho capito la radio, che radio hai? Non ho capito la radio, quale radio hai? Sto andando con l'onda, Ala 68, 34 K. Ah, Ala 68, ho capito. Invece le condizioni del trapasso sono San Cornecco, microfono San Delta e antenna l'antenna come si chiama? Non mi chiedo, no. Vabbè, che lo dico, Mantova 5. C'è sempre quello sbattero locale qua su casa. Quegli apparati sono tutti perché prendono splatter, questo non le prende, scala gamma. Mi puoi contraccambiare il segnale, grazie. Aiuto, ma come mi prego? E c'è un po' di pappagazzo, aspetta un attimo, vado un attimo sul 45 per vedere cosa avevo. Ma io sul 45 che ce la faccio a Peppa.